Ci sono alcune segnalazioni che vorremmo fare. Una di queste è il premio Goliarda Sapienza. Ne parliamo con Antonella Bolelli Ferrera. Ci sei, Antonella? Ci sono, buongiorno a tutti. Allora, si tratta di writing, l'arte dello scrivere, il primo laboratorio di scrittura creativa da ottobre di quest'anno a gennaio del 2018. E raccontaci un po', Antonella. Dunque, il laboratorio e-writing nasce come costola e come ampliamento del premio Goliarda Sapienza, che è un concorso letterario che esiste già da diversi anni ed è rivolto esclusivamente alla popolazione detenuta. La particolarità del premio Goliarda Sapienza era quella di affiancare ai 20 finalisti scaturiti, insomma, dalla selezione del concorso, degli scrittori nelle qualità di tutor. Noi abbiamo pensato che fosse opportuno ampliare questa possibilità a più di 20 persone, perché 20 erano i finalisti, ma allargarla e soprattutto a rendere ancora più corposo questo aiuto. E quindi abbiamo creato un laboratorio letterario che dura 3 mesi e mezzo e che vede la partecipazione di 15 grandi scrittori nelle funzioni di tutor, ma sono il tutor non di un singolo detenuto, ma di tutti quelli che partecipano. E la particolarità di questo laboratorio è in assoluto quella di essere un e-learning, che è la prima volta che questo accade all'interno degli istituti penitenziari. A livello trattamentale, perché significa naturalmente portare il web dentro alle carceri, ovviamente si può immaginare questo che cosa può implicare, perché insomma bisogna mantenere altissimi parametri di sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha sposato questo progetto proprio come progetto pilota nell'area trattamentale ed ecco che abbiamo iniziato, abbiamo già fatto le prime 2 lezioni con Cinzia Tanni, Romana Petri e Serena Dandini. Quante sono le persone detenute coinvolte? In totale sono 60, perché sono 4 istituti, sono Rebibbia femminile, abbiamo 15 donne, Rebibbia reclusione, Saluzzo e Santa Maria Capovetere per la sezione alta, per le sezioni dell'alta sicurezza. Quindi anche questa cosa qui è importante, è stata proprio una mia richiesta specifica, quella di coinvolgere dei detenuti dell'alta sicurezza che solitamente hanno accesso a meno opportunità, diciamo, da questo punto di vista. Sì. Oh, per chi non conoscesse il premio, ci racconti un po' quando è nato, quali sono i presupposti, come si è sviluppato nel tempo? Dunque, il premio intanto è intitolato Goliarda Sapienza perché io in quel periodo, quando mi è venuta l'idea una decina di anni fa, lavoravo alla radio anch'io e scrivevo le biografie di personaggi interessanti e avevo trovato la biografia di Goliarda Sapienza che mi aveva molto interessata e ho lessi in quel periodo un romanzo breve, l'Università di Rebibbia, che lei aveva scritto dopo un breve periodo di detenzione, perché lei commise un furto e che la portò a vivere appunto l'esperienza della prigione. E fu un'esperienza così significativa che lei, una volta uscita, pensò di scrivere questo romanzo e fu la prima volta che un editore la prese in considerazione per pubblicare qualcosa di lei. E io mi dissi, ma allora forse questa occasione potrebbe essere data anche a tante persone che vivono l'esperienza carceraria e così è stato. È nato, diciamo, intitolato a lei per questo, ma soprattutto lo scopo è quello di concorrere a dare una concreta espressione alla finalità della rieducativa e della pena che poi sono contemplate nell'articolo della nostra Costituzione, articolo 27, che vuole che la pena, la detenzione non significhi solo espiare una pena, ma anche deve avere una finalità rieducativa per reintegrare, aiutare la persona poi a reintegrarsi nella società. E noi crediamo che oltre all'attività di studio e di lavoro, anche le attività culturali producano un circolo virtuoso, proprio possiamo dire, nella persona, che induce alla riflessione, anche a una revisione di quelli che sono stati i propri atti criminali. Senti Antonella, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, senz'altro. Allora c'è il sito che è www.raccontidalcarcere.it. Lì c'è tutto l'archivio con tutti i racconti del premio Goliarda Sapienza. Ci sono anche tante interviste a dei partecipanti, a detenuti e detenute, e anche i link a dei cortometraggi che sono nati sulla base di questi racconti, che sono andati in onda su Rai 3, che abbiamo realizzato assieme a Rai Fiction. Diciamo, cerchiamo di allargare a tutti i media i racconti che escono da questo concorso, e anzi non voglio dimenticare, lo voglio dire, perché ogni anno noi pubblichiamo un libro, e quest'anno lo pubblichiamo con Giulio Perrone, editore, certo, con i racconti finalisti. Siamo al settimo libro. Bene. Che va in libreria e i cui proventi concorrono a, diciamo, realizzare delle iniziative in favore della cultura della legalità. Bene, allora io ti ringrazio, ricordiamolo, il premio Goliarda Sapienza, si parla di writing, l'arte dello scrivere, il primo laboratorio di scrittura creativa da questo ottobre fino a gennaio prossimi. Antonella, un abbraccio e a risentirci grazie. Presto. Ciao. Anche a voi, grazie a voi, arrivederci.